Aspetta che saluto Antonio. Ciao Antonio, buon riposo. Ciao Antonio, riposa tranquillo. Grazie, grazie. Ogni tanto ti facciamo boom, ti facciamo svegliare. Ogni tanto gli metti il beep già e lo svegli. Cosa? Ho detto ogni tanto mettiti il beep così lo svegli. Ah, ti stavo dicendo, adesso come ti arrivo il segnale? Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non ce n'è più, no, li hai accesi tutti. Questo, non so se ti ricordi come Lincoln, è a pacchetto, no? E ce ne sono diversi tipi di Lincoln. Vabbè, comunque, va bene, e Lincoln, cioè, quello che ti stava difettando è quello che ti sporceva, cosa gli succedeva? Andavo fuori frequenza. Eia, bravo, sì, sempre quello. L'ho tenuto, è un regalo che mi hanno fatto, quindi l'ho tenuto, l'ho fatto mettere a posto e era una coppietta con un Q5. Solo il Q5 lo sto usando nell'altra, nel container, dai, quindi ho anche il Q4, ma devo fargli lo spezzone. Adesso vediamo cosa, se ne giugana. Devo cambiare le connessioni, diciamo, dai. Se no ti fai uno spezzone che vada bene per tutti e due. No, non fa, perché uno ha un attacco di verso all'altro, non un attacco, i fili all'interno sono, dovrei aprirlo e metterli tutti precisi, capito? Non fa, poi Lincoln è a 5, invece l'altro è a 4. Ah, ecco. Vabbè, comunque sempre bene il microfono sta andando, perché l'ho acceso apposta per vedere se va bene, perché facciamo... Non capivo se era l'apparecchio il microfono, un alternato. L'ho tutto smontato, gli ho isolato bene, gli ho messo degli isolatori nuovi, perché quelli che aveva, dove c'è le rotelline per aumentare il volume, eccetera, eccetera, dove sono saldati i fili, sopra c'è un biadesivo, in modo che non tocchi al circuito, capito? Però l'ho rifatto nuovo, gli ho messo il CRC nella portante, quello che potevo fare ho fatto, ho controllato tutte le saldature, erano a posto, che cacchio c'ha? Ma invece adesso va bene, sono contento che abbia il risultato. Adesso sta andando a 220, poco fa era 12 volt, sempre con lo stesso apparecchio. Sì, va bene già. Io ho un altro amplificatore da provare, ma non ho giovani di cambiare, di fare. Quando, magari stasera, adesso non ho voglia. Perché stavo facendo una cosa nel camper anche, volevo pensargli uno di questi amplificatori anziché del 747, mettergli un pochino più grande. Vabbè, ti dico la verità, 747 ti fa aumentare i due segnali, come ti fa aumentare il 747? Anche quello da 300 non ti dà 300 pini, te ne dà 200 massimo. Se poi alzi, vabbè, anche il watt, allora dell'apparecchio allora va bene, ma se alzi il watt distorce la radio, quindi non va bene. No, non è assolutamente vero, perché io il 48 modificato e fa da mezzo watt a 18 watt modulati, va bene con qualsiasi tipo di amplificatore, sia con Falcos, sia che un 550 stesso, anzi è un 600 quello, poi c'è il ZV che è il 550 e il 747 che lo spinge sino a 120 watt, quindi non distorce minimamente né uno né l'altro. Dipende sempre dagli apparecchi che metti. Se tu abbassi la potenza anche nel mio, va, perché il video è quanto c'ha dietro, sta sempre l'amplificatore. Se c'ha sino a 10 watt e tu gliene mandi 20, è normale che poi non vada bene. Sì, già, hai ragione, ma infatti ti sto dicendo, io ho il 48 che fa da mezzo watt a 18 watt con picchi positivi, quindi è spinto molto di radio, molto di cose, quindi non va a distorcere con quelli, perché non gli stai dando i 20 watt che gli stai dicendo su, capito? Allora, quelli della RM Italy ce ne fanno praticamente lo stesso tipo, lo fanno con due entrate, una che è l'entrata da 10 a 20 e l'altra che c'era da 5 a 10. Ho detto da 10 a 20 cosa veniva? Ho ordinato a 5 a 10, ho fatto la cazzata, perché se lo facevo da 10 a 20 non avrebbe distorto proprio niente. Infatti vabbè, perché poi avendo radio modificate magari potevi portare la radio a quella portata lì. Sì, ma anche tutti gli apparecchi americani, eccetera, eccetera, sono tutti, escono tutti con 20 watt minimo. Quindi se io lo prendevo 20 watt avrei potuto attaccare tutti gli apparecchi possibili e immaginabili, ma sicuri no. Così si è limitato i watt, non glielo abbassi. Adesso puoi dire con questo sto uscendo con 2 watt, se sapessi qual è il timer, il trimmer dei watt, me lo aumenterei almeno a 5, perché esce basso proprio questo qua, esce... La radio va bene, è vero? È perfetta, va bene la tua. Ma però, vabbè, questo quando me l'hanno venduto aveva il microfono normale ed era bruttissimo, usciva basso basso di radio. Poi ci ho messo la mano io e praticamente sono riuscito a cambiare il radio tutto quanto. Solo che non era accorto che avevamo fatto così bassi, sicuramente sono stati abbassati per attaccare il lineare, roba del genere. Perché questo omologato dovrebbe uscire almeno 4 watt, questo c'è con 2 watt, capito? 2 watt è un bel fogo. Vabbè, adesso vedere, sto cercando qualche microfono per abbinare qua, ne ho un cassetto pieno, vediamo se riesco a togliere qualche cosa, aspetta un attimino. Ma funzionanti sono questi microfoni, ne ho un cassetto pieno, adesso agli amici. Stiamo mettendo la portante? No, ero io già. Stavo provando il microfono e c'è solo il portante, e ce n'è un altro. Cazzo, dove sono? E qual era quello che diceva il portante? Il microfono? Aspetta, se non mi leggo, uno. Un Zodiac, quello che c'è la CTM, Marigiani. Ma amplificato, no? No. Aspetta un attimo. Stai uscendo di radio? Sì, ho capito. No, stavo provando il più 4, ma schiaccio, allora, inserisco il jack e praticamente va importante, capito? Ho capito, rimane inserita come se ci fosse il look. Sì, però non sto parlando neanche del radio. Perché i collegamenti sono fatti male, sono diversi. Ho l'altro, ma ce l'ho in baracca e non ne volevo andare a prendere. No, ne ho 4-5 di cioè, questo cos'è? Questo vorrei dire Pinwood, questo è Intec, l'altro cos'è? Questo è del Sears SSB, l'originale. Ce l'hai tu il Sears? Sì. Sì, è quello che utilizzo nel container. È grande comunque il Sears, è vero, come apparecchio? No, credo che sia da base, ma non è grandissimo, dai. Sarà, esagerando, 30 cm di lunghezza per 8 cm di larghezza e poi profondo 40-45 cm. Sono belli quegli apparecchi. Adesso ho il Royce, praticamente è nuovo di zecca, non c'è un graffio, niente, è proprio bello, tenuto benissimo. L'ho preso in continente, però non qua, Sì, l'ho avuto anche quello, per prova, dai. Io, lo sai, io li prendo, li provo, poi ci rimetto a posto, non è che... Ma, sinceramente, non sono per le cose molto adattate, ecco. Quello, il Seat SSB, me lo volevano dare, 250 euro me lo volevano dare, e non l'ho dato, è un regalo. Vabbè. Sono belli come apparecchi qui. Io lui ce l'ho pagato 2,20, 2,30, se non mi ricordo. Più la spesa di spedizione, mi è venuto fuori soldi, però va benissimo, è perfetto. Sì. Vabbè, già, sai cos'è che... Cioè, io la penso così, adesso... stavo, non so se ti ricordi, stavo facendo aggiustare da Fabrizio un trucco che era, diciamo, da vetrina, era bellissimo esternamente, ma dentro ci avevano messo le mani un po' di gente, non parlo qua di Sassari, ma a 50 km di distanza da qua, non voglio dire dove, questo che hai già capito comunque. E vabbè, ci ho messo le mani, tra una cosa e l'altra è riuscito a metterlo in sesso per un paio di giorni durato. Andava benissimo, mi piaceva, cazzo. Ero innamorato di quel puzzo perché era maniacalmente tenuto esternamente. Cazzo, andava dei picchi di modulazione bellissimi, proprio forte come il radio, mettivi qualsiasi tipo di lineare, andava bene. Però sai cosa succedeva? Che dopo due o tre giorni, quattro giorni, forse anche cinque che lo usavi, si rompeva un altro un componente, me lo sostituiva, dopo altri 5-6 giorni un altro componente differente e così via, ma per 3, 4, 5 volte. Alla fine ho detto, fa una cosa, te lo tieni per pezzi, te lo usi, te lo fai, fai quello che vuoi, non mi interessa più, perché tanto mi dava fastidio anche rompere le scatole, ogni tanto dirgli guarda si è rotto quello e quell'altro, me lo controlli, perché ci ha buttato anche diciamo un po' di ore di lavorazione sopra, capito? E niente, così gli ho regalato. Magari erano usurati i componenti, erano usurati come l'hai acceso, come andavano in funzione, come scaldavano, partivano. Quando sono fermi magari sono usurati e sono fermi da un po' di tempo. Sì, già, diciamo la verità che anche loro hanno l'età loro, quindi e niente, così mi ho preso un HR 5005 nuovo di scatola, proprio in scatola, nuovo, usato praticamente niente, perché l'ha acceso, l'ho visto acceso, sono tenuto forse una settimana acceso, così non gli piaceva il colore, perché aveva il frontalino dove c'erano i numeri arancione e invece dove c'è i numeri, dove c'è 01, 02, 03 erano verdi, niente, quindi l'ha messo nell'armadio e niente, poi me l'ha venduto a me, l'ho pagato 120 se non mi sbaglio, ma è nuovo di pacca, mi ha fatto fare le modifiche, delle stesse modifiche che c'erano nel brutto, va benissimo questo, è la stessa, è praticamente il brutto ringiovanito, ecco. Se ci fosse un po' di gente a spendere i soldi, guarda, prima ne spendevo un po' di soldi, apparecchi, roba, cambiamo, facciamo, ma c'è poca gente, non ne vale la pena. Adesso ho comprato l'antenna, vabbè, l'antenna ci voleva perché l'altra era disastrata, quindi me ne ho preso un'altra, capito? Cos'hai? Che antenna è? Superlem. Ah, la Superlem, quella è bella, cioè, so che è buona. C'è anche l'incastro che vale il tubo in acciaio proprio. Meglio della Game Master sicuramente. La Game Master come antenna va bene, perché i segnali più o meno sono uguali. Però è la struttura che è debole, la struttura non regge, non è fatta per il vento, a me mi tira un bel vento oggi che c'è la maestrale. La Game Master si piegava quasi a tutta terra, come se avessi preso un tonno. Infatti mi ha suonato il campanello quello che abita nell'attico, ma è già l'antenna, una volta mi ha detto, già meglio l'antenna si sta tutta piegando, si sta per troncare, la olio si è fatta così, deve lavorare in quella maniera, invece mi si è troncata pure. Ma guarda, io ho messo alla prova quell'antenna che autocostruita che faceva l'amico tuo. In confronto a questa che c'è qua c'è un abisso, non esibi blu più. Eppure c'è coso, l'ha fatta, come si chiama, Attore Squalo, è sempre bella dritta, è sempre bella, e arriva bene, vabbè, è vicino. Non lo so, vabbè, io sarà, ma sono più per la Mantova. Poi la Superlem è la stessa, è buona. Ne ho preso una Walter che mi sembra aveva 16 radialini, però non è, non la metto a fianco alla Mantova o alla Lem, ecco. La Blizzard ha preso. Non so, c'è un cavo poi blu che si collega alla spirale col coso della massa dentro il pan. No, perché quella che c'è la radio maialini corsi. Corsa, lei è la Blizzard. E quella lì dicono che è buona, buco l'antenna. Poi c'era quella che avevano costruito a poco, quello che è tipo Mantova, che stavano facendo dell'Assirio, praticamente questi due fratelli lavoravano all'Assirio, poi hanno aperto un laboratorio a conto loro, hanno costruito questa antenna. È tutta fatta in acciaio, bulloneria in acciaio, facente in acciaio, tutto in acciaio. Però c'ha, mi ha fatto spaventare quando l'ho visto appiazzare, quanti bulloni, quante viti che c'ha. Oi, oi, oi. Ma qual è? Quella della Grazioli? Esatto. Ah, quella è bella, offesa. Vabbè, ci vuole un po' di tempo, Quella l'ho vista, l'hanno mandata come prova a uno che aggiusta baracchini e fa questi lavori qua. E l'ha piazzata davanti, cioè l'ha aperto il pacco, l'ha piazzata, ho guardato sulla bulloneria già asciuzzata. lo so, però vabbè, diciamo la verità che se tutto in buono stato, non solo che la cosa è buona, dura anche nel tempo, non è che... Quello sì. È buona anche quella che ha preso Claudio, come si chiama? La J-Ball. E quella lì dice che schiocca forte. Non lo so, vabbè, sì, lui l'ha provata, quindi io non l'ho mai provata, non l'ho neanche vista, l'ho vista in fotografia, non è male, però vabbè, ci sono le prove, a differenza, allora, le antenne vanno provate, non una in casa mia, una in casa tua, una in casa di quell'altro, poi le ha provate nella stessa UTH, nella stessa stazione, con gli stessi watt, con le stesse antenne, cioè con le stesse altezze, e allora uno dice, cazzo, questa rende e questa no, capito? Io ti ripeto, ho provato quell'autocostruita e già me ne mangiava 20 dB di segnale in confronto alla Mantova, però non lasciate lì. E allora è riuscita male, che ne so. Quella di Torre va bene, poi l'ha costruita anche Giulio, una tipo la Game Master, ha preso le misure della Game Master e se l'ha fatta lui. E andava bene, andava veramente bene, anche in lontananza. E vabbè, ma che sia uscita male una volta posso capire, ma due volte no, perché è uscita male e io pagando il materiale a levare, cioè io l'ho pagata, sono arrivata a togliere 40 euro, 50 euro per il materiale e poi va male, non va bene, capito? Vabbè, eccolo sì, vabbè, che cosa vuoi fare? Sono cose sperimentali. Diciamo che quando costruisce le cose un ingegnere ha studiato per quello. Ho capito, se sono sperimentali cazzo fuori con quello tuo, non con quello degli altri. Non ti compreso. Se me l'hai garantita, io ti do i soldi e ti do la cosa di farla per poter andare bene, non per andare male. No, sono sperimentali, nel senso che lui le fa però e sono a prova, dai, le fa così, non è detto, non ti dà una garanzia al 100%. Le antenne, magari una può uscire bene, l'altra ha preso quelle difettose. No, è male, lui le fa per vendere, cosa vuol dire? Infatti gli ho detto, la compro anche io, basta farmela, me l'ha fatta. Vabbè. Comunque a me me l'ha detto lui che mi si troncava la Game Master e così è stato la vita, lui mi ha detto già, quella lì c'ha un materiale, vorrebbe tutta quanta rinforzata come faccio io con le medie, metto un tubo più grosso e poi le passo tutte le vulcanizzante eccetera eccetera. Quella lì la Game Master va bene perché chi lavora è il filo, è il capo con la bobina. Ma se la struttura non regge, chi dà la ragione? Da me cazzo, si piegava come... Fatti assurdare se la vedi più come si piega, ma questa qua con tutto il vento che c'è si muove appena. Va bene. No, ti ripeto, addirittura mi si è spezzata anche un metro e mezzo dalla punta, infatti avevo messo un rinforzo, un'altra canna da pesca per rinforzo, tutta organizzate, non so meno, oh, lascia bene. Io ho sempre preferito comprarle, diciamo, di quelle già fatte, dico la verità. Ho sbagliato con la... la Game Master, anche se è un'antenna valida, nel senso che come segnali sono buoni, però la struttura non mi convince, capito? Voleva rinforzata, magari rinforzandola, ma è sempre resina, si vetrifica, materiale di resina. È vero. E vabbè, che faccio? È andata così, no, nessun rimpianto, anche perché è durata un giorno. A me non hanno aggiustata due volte, poi mi sono fresca, no, una volta. La prima volta era praticamente sfilacciata un po', l'ho fatta entrare più dentro, di modo che la parte che non era sfilacciata lavorasse quella. L'ho fatta entrare un bel po' dentro e gli ho messo delle fascette in acciaio, tutte in fila, una dietro l'altra. E con la parte lì ha tenuto, si è rotta l'altra. No, vabbè, anche cioè, nulla è fatto per durare per sempre, per carità. Tu pensa che l'antenna che abbiamo praticamente rimesso in senso, anzi ha rimesso in senso Fabrizio, aveva più di 30 anni quella mia, quindi dopo 30 anni si è fasciata, dove c'è la vetroregina. Brecco per un controllo, brecco. Avanti. Ehi, buon pomeriggio, ti divulga questo affatto. Ho appena riparato questo tornado, ho cambiato l'integrato e lo stavo solo provando, non andava in trasmissione. Aspetta. Dire solamente se sta andando bene, dai, se è più o meno allineato o no. No, Gigi, non te ne avevo di controlli, perché non mi hai fatto un baracchino e quindi sono offeso con te. Non ho capito. Ho detto, non te ne avevo controlli, perché sono offeso con te, non mi hai fatto un baracchino e quindi non te ne avevo controlli. Vabbè, allora, comunque mi senti, mi stai rispondendo. Sono a tenere lo Smith, no? C'è lo Smith bruciato, bisogna vedere anche quello. Va bene, Gigi, va bene, ottimo, tiro muscolo comunque. Già va bene, sto usando un President Lincoln adesso. Ciao Farro. Chi era l'altro? Chi c'è? Mi sembra c'è Gianni De Perrua. Chi è l'altro? Ehi, ciao Gigi, dopo tanto, se ero riuscitato. Sono più entrato adesso perché lo stavo riparando per un amico questo, guarda, lo dividava. E niente, perché non andavo in trasmissione, gli ho cambiato l'integrante, quelle... il 10-12, io ho cambiato quelle specie di finale lì e ho visto che sta funzionando, dai. Oh, adesso è bene, ma ti avevo riconosciuto col microfono normale, va? E i tuoi apparati sempre funzionano? Sì, vabbè, questo non ho controllato nulla, io l'ho cambiato solo, però si potrebbe fare qualcosa, adesso non sto lì a controllarlo, dai. Però perché se hai detto tolto un integrato da molta più radio, ma molta, al dubbio, però non è, gli ho messo a posto solo quello, non mi interessa. Ricordami che non mi hai fatto il 1948, ricordatelo. Ma non sto più facendo di nulla, non mi ricordo più niente, poi non c'ho pazienza, capito? Non c'ho più pazienza, capito? Più quelli che faccio che è giusto. Però per fare solo si girate i ricordi. Da questo adesso gliel'ho messo a posto, ecco 48, ho messo a posto, non modificato, messo a posto. Andare, va bene, non c'è problema, Gigi, dai, siamo duriamo lo stesso. Positivo, solo non mi piace la colonnina che è tutta quanta nasina. Adesso ho l'apparato suo, però con la colonnina sua ti sento tutto un po' nasino, non so perché. Questa cos'è? Un nasino ti sento, non so perché, però mi sembra sia questa colonnina qua. Aspetta che provo a cambiare il radio, aspetta. No, non ti mettere problemi, può essere la colonnina in questo baracchino. Prova a parlare tu, Giave, se ti sento chiaro. Aspetta, guarda con questo è il microfono amplificato, l'altro era un microfono normale. Adesso qua sì, perfettissimo. Ascolta, devo ancora dare delle... noi becchiamo, là, se vuoi controllare la radio com'è messa, devo dare un guardino dentro come fa, se c'è qualcosa da regolare, e vedere questo Smith perché è stretto. Andare, no, questo è sempre un birichino, non è quello base. E poi questo è un tornado, cos'è? Un tornado 34S, però con le modifica delle 120 canali forse. Va bene, Gigi. No, stavo utilizzando questo microfono qua con l'intelligente perché è l'unico che andava bene, non avevo voglia di fare connessioni, quindi ho utilizzato il primo che ho trovato che andava bene. Se no quello lì andava bene con il più 5, ma ce l'ho in un'altra radio e in un'altra parte. Se quella è la stessa radio che ci hanno adoperato prima, quel microfono è 10. Capito? Se l'altra era 3, questa è 10, capito, con questo microfono. Sì, vabbè, questo è un'altra radio, anche questo è l'Intec HR5005, è praticamente come il brutto, vai, il Galaxy brutto, modificato. È positiva. Vi lascio al limite, vi chiamo dopo, guardo, controllo un po' questo Smith cosa c'ha. Andare, vai Gianni. Ciao, non mi hai detto che era un asino, beh. Avanti, Tino. Figlia già, non mi hai detto che era un asino. Ma io ti sento bene. Vabbè, non è un microfono amplificato, non posso pretendere. Ah, per me va bene, non lo so, poi se io ti sento così magari anche la sua colonnina, non lo so. Io ti sentivo bene. Ehi, va bene. No, io ho uno spezzone di filo che mi aveva fatto Antonio Riserva a proposito da collegare, non so con che quale microfono, sai, che faceva da 5 a 4, cioè da Lincoln a un microfono. Sicuramente è quel microfono che ho dentro nel container. Adesso vedo un po'. Ma se il tempo niente, mi faccio una scappata e lo prendo, se ne voglia, se no ciccia. Vai, tanto io. Per le 5 devo essere in un posto, ma sino alle 4 e mezza, 5 meno un quarto, cioè posso stare. No, allora mi aspetta, faccio una scappata, vado, lo prendo e vediamo un pochino se funziona. Scappa. Anzi, prova a chiamarti anche da là e ci metto il 4, se va bene. Ok? Ehi, qua sono io. Sogno qua. Gianni. Gianni? Sì, ho sbagliato il microfono, sì. Quindi questo qua va bene? Sì, va bene. Questo è il più 5? È chiara la voce, sì. Diciamo che le timbri che cambiano da uno all'altro, però vanno tutte bene. Sì, no, volevo sapere se andava bene con questa radio qua. Adesso sto utilizzando il President Lincoln con il più 5. Scappa. Ah, un po' di effetto camera, quello sì. Vabbè, la camera è grande, magari rimbomba, boh. Beh, certo. Lo fa, dai, fa. Ma per il resto va bene. Aspetta che ho passato i toni e aumentiamo un pochino l'amplificazione. Guarda, forse cambia qualcosa. No. Non ha cambiato niente. No. Se tu non mi dai una risposta io te lo richiedo, ha cambiato qualcosa? Che la risposta te l'ho data, ti ho detto no. No, non hai schiacciato il mic. Aspetta che rimasto tutti i toni e aumento ancora. Guarda un pochino, 1, 2, 3, prova la modulazione. E così sta alzando. Così tutto alto? Tutto alto. Sì, vediamo un attimino. Se metto così, guarda, se non mi o meno. Qui te l'hai avvicinato? No, non per niente, è sempre la suite di stato. Allora, come chiarezza era meglio prima. Il secondo passaggio che hai fatto rimane un po' occupato. Bene, e così invece l'ho rimesso come la prima. Ah, va bene così, va di lusso. Effetto camera accende, l'ho detto, però va benissimo, la radio è chiara. Bene, non sapevo che microfono è che dovevo fare, adesso so cosa devo fare col 4. Cavagava. Che non ne ho voglia, sinceramente mi prende male, non c'ho più la voglia di fare queste cose. Perché io non è che prima ne faccio più di queste cose qua, poco fa c'è stato costretto perché non andava bene il microfono, l'ho aperto e l'ho fatto a pezzettini e ho visto che non c'era nulla e l'ho richiuso. Allora, tu pensa che tra un 5 e l'altro sono state cambiate le connessioni, quindi non va bene neanche all'altro Intec, perché questo qua è il vecchio 5 che avevo io, ma ti parlo della prima stazione che avevo, figurati. Questo ce l'aveva per anni Antonio Riserva, alla fine mi ha detto non c'è ancora quel più 5, e certo che ce l'ho, la porta non mi serve. Ma sarà quello che gli ho venduto io, quello nuovo o no? No, questo era il mio, che io l'avevo prestato a lui, perché era senza niente. Niente, dopo distanza di anni me l'ha ritornato, ma perché glielo ho chiesto che mi serviva. Ah, ho capito, e vabbè, mi ha fatto stagionare. Ma l'altro non c'è un problema, non è come altra gente, capisci? No, già lo so che Antonio è una persona tranquilla, persona seria, andava, no, io, guarda che Antonio lo conoscevo, ero un ragazzino, quello ti portavo gli apparecchi a aggiustare a lui. Sì, vabbè, lui faceva la volumina allora. Sì, aggiustava gli apparecchi della 27, anche modifiche faceva. Non so. Da bambini. Poi c'era Alessio che faceva queste cose. Chi è stato? Io li rompevo i banacchini. Ah, Antonello, ci metteva lo scotch rosso e quello che non mi piaceva era quello. già è vero, nel microfono specialmente. Ciao Gianni, ciao Tino. Ciao Ale, ma io l'ho detto perché ti ho sentito che sei entrato apposta. Già lo so, non ti preoccupare. Allora, io Antonello devo portare ancora il mio... piazzato lo Smith nero, te lo ricordi Antonè? Che mi aveva messo lo Smith nero anziché quello verde. Ehi, se non mi sbaglio c'è una cosa, aspetta che voglio controllare. Lo Smith deve fare 1500 se mi sembra che era, no? O mi sbaglio? Non mi ricordo, è nero. Lo voglio cambiare perché a parte che non funziona. Devo già mettere quello originale, Cazzo, le ho dato uno l'altro giorno io. Non riesco a trovarlo già, non riesco a trovarlo, se li ordini già ce l'hai, ma non stai lì a fare un casotto. Niente, dopo cambiamo il numero. Io ce l'avevo originale, proprio dell'anno 48, nuovo. Me l'ha chiesto l'amico, gliel'ho dato, perché adesso 48 non funzionava. Hai fatto bene. E mi ha detto che è perfetto, che funziona benissimo. Sì, ma a me piace, anche perché è quello luminoso. Io ancora quello schermo mi ha dato tu, già te lo ricordi, quella che cerca di mettere le luci. Ce l'ho bianco la scritta celeste sopra e rosso sotto. E questo non ce l'hai? Ce l'ho qui, però c'ho solo la placchetta. Vabbè, lo smetto, mi sembra non funziona, adesso non mi ricordo la verità. E infatti quando deve fare 1500S non crea la 48, capito? Vabbè, se ce l'hai me lo dici, mi chiami, ti porto la radio così lo cambiamo. Pagamento la consegna, lo sai. Sì, un po' male se funziona. Adesso non me lo ricordo la verità. La prova è una batteria. Se funziona glielo cambiamo, ce l'abbiamo in Napoli. Questo è bianco, c'è la cosa. La scritta celeste sotto dove c'è scritto Signal, sotto dove c'è scritto Power e rosso. È quello che utilizzo nel camper, quindi non vedo il segnale, quindi non fa. E poi quando volo, a volte succede che rimane, si alza la portata e si ha 2-3, anziché fondo scala, capito? Perché con lui è spinto, quindi deve andare a sbattere nel fondo scala. E io ho capito. Cosa fare? la vecchia di dietro da smollare appena appena. Aspetta che rimetto una batteria a vedere. Aspetta che me ne controllo, Antonio. Guarda un attimino, ho sequenza per la segnale radio. Allora, così la manetta, la radio è sporca o come? E poi bisogna anche il segnale. No, no, la radio è pulita. Sporca non lo è, io ti sento bene, perlomeno. Allora è manetta che... già sta andando, già sta andando. Però devo eliminare, devo rimettere quell'altro microfono. Vai Gianni che è piazzo l'altro, cosa come solo per l'altra radio. Dai, io mi riposo un po', sì, che mi sto stancando anch'io, dai. Stamattina mi sono fatto un bel mazzetto. Vabbè, dai, vi saluto, poi magari più tardi ci sentiamo. Ciao Alessio, ciao Tino, alle prossime, neanche le ascolture, intanto so che ce ne sono. Ciao, ciao Gianni. Orecchie, orecchie. Ciao già, ciao, buon riposo. Ciao già, ci sentiamo. Queste orecchie, queste orecchie, come fa qua? Cosa? Ho detto come va la radio fa? Buona, buona. Buona? Un po' apprezzata, però dovresti staccare qualcosa. Qua volevo sapere, se lo dite dopo mezz'ora. Cazzo, sei troppo... Poco fa è cambiato microfono e si sentiva bene, si sentiva, non ho capito perché, però non hai abbassato niente. No, adesso ho abbassato un po' di fatto, guarda, uno dei tre problemi di modulazione, questo è vabbè, è sempre il president, esatto. No, la modulazione è buona, è bella, però che a volte, non lo so, se è vicini, come c'è, oh, qua va benissimo, ciao. Qua va benissimo Tino, è proprio limpida. Quanto ti sta arrivando a te Gianni Tino? A me mi arriva a fare lo scala a Tino. Ecco, è 9.20, però l'ascolto chiaro come mi dice tu. Guarda, io ho una colonnina a parte che c'ha i filtri e tutto quanto e lo sto ascoltando con quella colonnina. Non lo so se dipende da quello, però io l'ascolto bene. Aspetta, dai, con questa invece come mi ascolti? Ho cambiato il microfono, questo è un palmare. Questo si sente che è normale, però è molto molto più chiaro la modulazione. La tua voce è verticale. Ma volevo dirti, è pressata oppure no? Va bene così? È leggermente pressata, ma non molto. Bene, adesso l'ho abbassato, ho abbassato un pochino e vediamo un pochino se ha migliorato. Sì, migliorato. Diciamo che come modulazione è buona. Come segnale non è che è abbassato, non si è visto qua. Vabbè dai, è abbassato di una pacca, non credo che cambi più di tanto. Attento Pomponio. Buona modulazione, dai. Con l'amplificato spingi di più. Attento Pomponio. Immagino. Chi è che chiama Pomponio? Avanti. Avanti, avanti, chi è se? Tutto lo spirito funziona da regolato adesso. Dobbiamo solamente avere il vetrino che c'è tu sopra e basta. Il resto funziona tutto. Ma è vero che ti stai montando lungane. E anche lui sa per questo. Vabbè, se non sono così non le vogliamo. Franco, guarda questa qua. È buona, buona. Allora lasciamo questo, dai. Perché è un palmare, capito? Va bene, va bene. Tonello. Ehi, stavo cercando lo Smith, e ti non mi va già. L'ho provato del 548-6, dovrebbe essere. E funziona bene. Parte da zero, arriva fino a 30. Eccomi qua l'ho fatto bravo. Adesso ci siamo. Vabbè, qua è la solita no, ma diciamo che la seconda, ecco. Ecco, vedi, qua la modulazione è bella veramente. Adesso si vede che stai usando, vabbè, stai usando una radio abbastanza consistente. La piccola però è questa, Questa la piccola però è un po' aiutata. Il capo, ma va bene però, è bella, come modulazione tutto, è bellissima. Adesso è proprio sigillato, così non si rompe il vostro laghetto. Già va bene, quando ci vediamo ti intanto con la Ciccio. Ma e quindi ce l'hai? Sì, ce l'ho. L'unica cosa che vuole, li togliamo il vetrino di davanti e li mettiamo il tuo, basta, tutto il resto funziona bene. Aro, che cosa, è perfetto. È la lampadina prima che ci mettiamo. Vabbè, fallo direttamente, cioè nel senso che se poi al coso verde originale è ancora meglio. Sono i febbrini e poi magari ci manca questo, ci manca quell'altro. Il coso verde non ce l'ho, ce l'ho bianco, te l'ho detto. Dovrebbe essere il 548SX questo scritto. Solo che mi avete per forza il vetrino tuo, perché quello che ho io qua è rotto, capito? Vabbè, la pagina dello smetto che mi posso mettere uno di quelle dei bianchi al limite. Assomiglia che lo cerco questi giorni qui un LED e glielo installo direttamente con due cavetti. Andabex, perché sono a coordinarlo, non saprei dove andare, ma è a cosa, la GBC. Non c'è più niente, Torino, per carità, guarda, se vai via c'è qualcosa non ho capito. Come andare in un negozio di agricoltura, e lo trovi un tubo. Va bene, Franco, riprendi, vai, questo è la number one. Va bene, lascia lo soccer. Va bene, dai, riprendete voi che sto facendo una cosa, sto facendo qua. Io mi devo spostare due secondi, che devo andare a cucire la piccolina, va bene, a dopo. Ciao, io dopo vi ascolto, poi sto facendo una cosa che non posso mollare. Ci sentiamo. Quindi Antonio. D'accordo. Ciao, allora chi si sta muovendo, ci sentiamo dopo, là. Adesso anch'io qua l'ascolto. Cresci. Uia. Ma quello del 3009 va bene, lo smetto. No, il 3009 ce l'ha più lungo, più largo, capito? Invece quello del FM500S è leggermente più alto e più stretto. Ah, no, perché quello del 3009 ce l'avevo io, però quello del coso, io c'avevo quello della 40 originale, l'ho dato un paio di giorni fa. Ho capito. L'unica cosa che c'è un vosmetro che avevo smontato, mi è rimasto il wattmetro in pratica di quel vosmetro che è nuovo, il coperchio a base di sotto, poi il resto di io di cosa ragione avevo staccati, figurati, era un vosmetro che mi avevano dato quando avevo comprato il appunto il 140. Tu 140 c'era? C'avevo 140, quando l'ho ordinato in pratica ci ho trovato 4 rosmiti dentro e un accordatore. Figurati tu, sono tutti altri quei rosmiti, diciamo quelli, altri mezzo turco, il modello 500 la verità, come rosmetto. Poi gli altri erano tutti quei modello piccolo della Falcos che c'ha l'antimino nel fianchetto. Poi c'era uno che c'era il doppio ago, capito, che si incrociava. E quelli per la macchina, col misuratore di campo. Bravo, sì, fatela così. L'unica cosa che mi sono dovuto è il modello 500. E basta, ci voleva appena per il CVC e ha funzionato subito, sono i pulsantini. Poi gli altri funzionavano tutti quanti, li ho tutti regalati quei rosmetri, anche l'accordatore addirittura, era un accordatore fatto con autocostruito, però non riuscivo a capire che razza di frequenza faceva, a giubilare addirittura non aveva fatto una cosa che me ne faccio, ho preso un regalato. Il 27 non andava bene. Non si capiva che frequenza facevano, perché dove abbassare una vervetta, poi l'altra del fianco di sinistra, poi quella del fianco di destra, e non si capiva che frequenza faceva, capito? Ha preso e l'ho regalato, e ho detto ce la facciamo ad agganciarlo al cubo, dove ho detto, e mi si incendia. No, ma infatti, conviene comprare un accordatore rosmetro di quelli sì. E diciamo anche di quelli accordatori, diciamo appena quelli piccolini. Di quelli piccolini, anche quello ho regalato. Hai detto a uno, ho detto lo vuoi. Detto, dammelo, ha preso e se l'ha portato via. Tutto solo quello, il modello 500, poi il TR1000 l'ho prestato a Salverio per quell'antenna che c'aveva, che aveva problemi, così almeno entrava e si accordava di rientrare, capito? Non smettisse, solo su questi due ciò. Ma Salverio l'antenna piazzata, non doveva piazzare l'antenna? Però questa volta non mi ha detto, poi evidentemente ha avuto magari problemi col condominio, non ti restano. E lo sai come sono fatti nel condominio, se vedo l'antenna è un casino, capito? Io mi sono installato con la V e la U ieri, l'X300, mi sono comprato il paletto, e ho messo due tasselli di quelli del coso e l'ho piazzato. Perché era un peccato lasciarla qui buttata in terrazzo, e io ho detto, ma ce la faccio, quella direttiva l'ho presa, l'ho spostata leggermente, e questi funzionano tutti e due entrambe, quindi li uso tutti e due. Mi sto prendendo la biocco, sono coricato e piano piano mi sto operando, perché stamattina mi sono fatto un bel mazzo pure andando a casa e sono un po' stanchino. Allora chiudi gli occhi e facciamo tanti canti male in nanna. No, mi sa che così nel sonno lo stesso. Invece più bello che si sveglia, non è che per caso ti trovi un attacco di un'antenna veicolare VEU, però mi serve l'attacco o la base magnetica con l'attacco oppure l'attacco per attaccarlo alla carrozzeria. Qualcuno di voi ce l'ha per caso? Bisogna vedere come l'attacco, io non ne ho, però bisogna vedere se ha farfalla, come. No, è come il PL normale, va. Sì. No, io volevo un retratto, non ne ho niente da fare. Ma la GVC forse ce le hanno, le basi magnetiche per quelle antenne. Sì, io vorrei anche lo posso fare direttamente con un PL normale, però non voglio mettere una cosa giusto così, per l'ascolto, ho capito. Ho capito. Ma è macchina? No. Guarda, vuoi mettere sopra il container? Esatto. Certo, dove l'ho alternata? Io? Ma non è però. Ah, non lo metto di quello cosa è. Di nuovo me lo sta facendo? No, a me. Ah, pensavo che fosse il microfono mio, mi stavo già spaventando, non sono smontato. Sempre gli recitati. Adesso funziona, adesso prima non funzionava, aveva l'alternata, adesso funziona. E che avete svegliato a Claudio? Perché fa regolatore, aprendo l'app è tutto deluso dentro, come l'altro. Qua. L'ho messo solo nella cosa, nella portante, dove c'è il PTT e basta, un goccio, l'ho detto così per dire. E non metto il CRC che colore tutto. Ciao a te. Ben svegliato. Pensavo fosse l'apparecchio, invece era il microfono. Ciao, ben svegliato qua. Ciao, lascio mi riaddormento però. Lo so che non te lo fa perché fa regolatore. Poi però ti crea problemi al circuito stampato. Questo mi ha detto Fabrizio di non mettere mai CRC. Perché non va bene. Ti corre tutto. CRC è nato per mangiarsi la ruggine e l'ossido, però poi fa danno. Vabbè, divertitela, ciao. A punirlo in mezzo all'anche. Sì, in mezzo all'anche, da zia. Ho detto che se non sono così non li vogliono, hai capito? Sì. Andare. Ma Franco, chiuso. sta parlando? Io ho un leggero disturbo per quanto riguarda l'inverter, quindi segnali bassi li ignoro. E per l'estero, e per l'estero. Ah, ma allora chi deve uscire mi c'è contro un mese. Ah, comunque è stato fatto funzionare tutta la sera. La sera. E va bene, dai. Se ci dovesse rovinare questo microfono costa 30 euro, venimiglio un attimo, buonanotte. E che problemi è? Va bene. Questo è DM1000. Sono microfoni che vanno alla grande. Alla grande. Posso fare anche la presentazione. Ecco, ecco, a voi, Tino. E adesso fallo col culetto che ti guadagni il pane. Ah? Vabbè, con la bocca ci riescono tutti, ecco, culetto, insomma, comandano, va bene. Però ti puoi guadagnare anche un pezzo di pane. Masco, non voglio parlare con gente come te, dai. Non riposo anche. Sì, no, non venite pubblicità fra poco, non posso riposarmi, voglio stare sveglio. Ah, Antonello! Antonello stava manovrando con lo Smith da dare la testa. Avanti, Antonello! Sono qua, ho trovato la capsula originale con l'MB+4. Con la bacchetta metallo. Vergine. E me la chiamare tutti tu, la Virgine. Infatti io lo sto qua, io nel mio MB4, però ho salvato la vista originale, ce l'ho messo l'altra, con cotone, capito? Con la vista originale me l'ho lasciata completa così com'è, capito? Perché a volte, capito, ne ho già venduto 4-5 di questi microfoni, a volte dice, prestami la cassa rossa originale, ma no, gli stanno i fili e se la viene a pulire, capito? Poi ho trovato l'attacco per agganciare una diamond in una staffetta di metallo, adesso domani me la faccio. C'ho il cavo, c'ho il TL da metterli, così mi faccio l'antenna esterna. Bene. C'ho anche le manopole del coso, da cosmetto, del taggi per esempio, quelle grigie, con lo sfondo nero sopra. Ecco qua. Bene, ci sente, bene, perché ho toccato la rotellina del checco. Già, vabbè, a voi, finisci bene. E come va fatto, mi succede lì? Ma ascolti, ma che tu sappia, Vintec, con la stazione base, si può aumentare più di 2 watt la potenza? Ma ci dovrebbe essere il nucleo ferrite, da lì devi lavorare. Qual è il 242, se non mi ricordo, quella stazione base con lo splitter verde, e c'ha il mic. Le ha due di Smitter, due Smitter, più c'è la frequenza e il canale a fianco. Diciamo l'altro, la stazione base della Inter, quello, il 210 AF, che poi l'avevo lavorato, non mi ricordo a chi. Io ce l'ho detto anche San Vito di quelli. No, non 210, 610 AF mi pare che era 210, non mi ricordo bene, comunque c'era uno Smitter solo, c'è quello. Quella stazione base è piccola lì. No, questo qua è quello più grande, quello che c'ha, che è completo, c'ha modulatore e distorsore, di modulazione, poi c'ha, vabbè, lo Smitter, poi c'ha i canali e la frequenza. E tu ti segna la frequenza FM, AM, dove vai, te lo segna. Ho capito. No, quello non l'ho mai visto con l'apparecchio di la verità. L'altro invece quello, diciamo, ho avuto quello là, quello piccolino, e poi l'avevo volato. Non mi ricordo che l'avevo volato. E vabbè, la vecchiaia ormai, ogni tanto davo l'apparecchio, poi non vedo come lo riprendevo. Adesso se la via in Napoli, l'unica cosa che ho preso è stato un eco, basta, l'altro fu donato. Ma adesso ce l'hai, Saturno? No? Sì, ce l'ho a casa di Giovanna, stavo pulendo qui in camera, capito? C'ho tasse vecchie, impianti serie, cosa del genere, capito? Devo pulire e scenderci tutto in garage. Perché c'ho un tavolo in mezzo ai piedi, una scrivania e l'altra scrivania in metallo di quella da ufficio, capito? E voglio fare pulizia, beh, siccome non posso appoggiare l'entrata che sono ci passa Tommy e mi fa la traccia col piscio, capito? E ce la faccio a pisciare il baracchino. Ma che piscia in terra? A volte sì, a volte piscia in terra, non è che lo fa sempre. Dipende se io esco, capito, non lo porto, perché lui fa così, è dispettoso. No, il mio lo puoi lasciare anche 8 ore, non è fa, 58 ore non è fa. Almeno che sia diarrea, allora, può succedere, ma se no aspetta a me per fare bisogno. Il mio mi ha buttato la porta se entro a casa, quando devo uscire. Aspettate la prende, boh. Ma rotto, vai. E allora? Ma bravo il tio di chi si arrivi. No, allora diciamo la verità che è bravo con tutti, diciamo. Adesso è un po' così perché ho il pastore tedesco che è in calore, no? E quindi non ho un attimo. Tanto è vero che non sta neanche più bussando per entrare in casa. Solo lui ogni sera, vabbè, tieni presente che io ogni giorno pulisco, quindi lo faccio entrare per un po' e poi quando ci colleghiamo lo mando fuori per dormire, capito? Ho capito, se lo chiamavi un po' di freddo, poveracci. Io anche le quaglie, quelle che c'è in terrazzo, ce le entro dentro perché se no muoiono di freddo. No, lui a dormire e guarda sempre con me, per dire se io faccio il riposo serale, capita la domenica, se è pulito allora viene, si pulisce anche a me, sotto in terra, io non arrivo a lui in terra, una notte quando dormiamo tutti quanti a letto se ne va via. Cioè adesso ne hai due, il pastore tedesco e a lui. Sì. Già sono 15. Ma il pastore tedesco puro è chi? Diciamo che è puro, però è una razza che ha il manto chiaro. Ho capito. E ce n'è anche un altro che assomiglia al pastore tedesco, che è un beagile, non so come si chiama. E non rimane bello come il pastore tedesco, però rimane così chiaro, però ha un'agilità allucinante. L'ho visto salire su dei muri di un palazzo e arrivare sino al tetto. Questa qua io ho visto la madre che hanno lo stesso colore, precisamente che lui è uscita precisa del padre Navarro, praticamente è chiara, non è di quello manto scuro, capito? E quelli è quando è così in calore come fai? Quando è in calore, l'ultima volta si è saltata un pastore belga, li ho tutti regalati. Sono usciti in belli? Sì, però molta gente, sai, non l'ero non voleva, quindi gli ultimi tre mi sono rimasti un po' così, alla fine poi sono riuscito a dare anche quelli, ma male. Se no erano, ce l'avevo sul gruppo ma io, capito, perché anche se sono piccoli, anche loro mangiano, eh. Vabbè, certo che sì. Vogliono sterminati, vaccinati, fatti, no, però per le tanti non fa. Io avevo un amico che capace ne fa 7 di cani. Tutti con nome un po' strani, Gigi, Cassandra, tutti nomi strani. No, io diciamo per il parco, il pastore tedesco lo gradivo maschio, però non c'era e allora al momento l'ho preso. Però poi ti viene da pensare quando andrà in calore, capito? Perché devi riservare, insomma. E poi la volevo fare operare, per dire la verità, ma mi costa per 100 euro, cioè non ci sono neanche gli aiuti per farla sterilizzare, per immaginare. No, ma infatti, no.